veramente so contento. So romano puro sangue me ne vanto. So romano come il sole, l'aria e il vento, che so il simbolo di questa gran città. So romano e ve lo dico chiaro e tondo, e di questo so sicuro, sai perché? Perché il nonno di mio nonno aveva il nonno che giocava con Nerone a Caraghè. Giulio Cesare, Caligolo e Ottaviano li conosco tutti quanti a menadito. Poi Scipione l'Africano è garantito, la ragazza è stata a scuola assieme a me. Sempre parlo specie poi di Nigellino, come vedi c'è sta povera scherzà. Quindi so conquistatore, sia nel campo battagliero che in amore. C'ho un parente che faceva il gradiatore, come vedi c'è sta poco da scherzare. Se ve parlo poi di nonna Giovannina, quasi un secoletto prima di sposare, ha tenuto pure a Bali a Messalina, l'ha cresciuta a fichi secchi e baccalà. Giulio Cesare, Ottaviano e Marco Polo li conosco tutti quanti a perfezione. Quando feci tempo fa una discussione, hanno dato poi ragione tutte e tre. Come voglio di una cosa riservata, ma però sa da star zitto chi la sa. Cleopatra l'ho tenuta fidanzata, l'ho mollata se voleva passare. Vedo tutti quanti i romani, le vestali di una volta stanno qua, li petroni non se fanno tutti avanti, e Nerone con la lira sta a cantare. Qui tra noi ci vedo tutti l'antenati, di tuo nonno, di tuo padre sta.